quando si dice che si fa un lavoro da cani, di solito è una cosa non positiva, una cosa fatta male. Non penso che abbiate questo in mente quando avete scelto il tema dell'album. Vuoi parlarmi? Almeno spero che vorreste fare qualcosa di fatto male. Allora, abbiamo scelto questo concept soprattutto perché ci piacciono le sfide. E in passato, nel 2003, con l'album The Painter's Palette abbiamo cercato di lavorare sui colori. Nel 2005 con Pain 31 abbiamo cercato di lavorare su l'esorcizzazione del dolore, e ora con questo disco cerchiamo di infilarci nella testa di un ipotetico cane per vedere se siamo in grado di mettere in musica e parole quello che secondo la nostra fantasia può passare per la testa di uno degli animali che forse noi amiamo di più, perché il cane è sincero, non ha modo di nascondere quello che prova, e noi abbiamo cercato di farlo anche nel disco con la musica, perché questo è il disco più schietto che abbiamo mai composto ed è nudo, come è nudo il cane di fronte al proprio padrone, soprattutto attraverso gli occhi che fanno intuire perfettamente quale sia il suo stato d'animo, e che sia mai che Lucio colpiscono particolarmente perché adoriamo il cane, e pensavamo che fosse un omaggio simpatico, intrigante, difficile, e diciamo che ogni testo è stato preso da dei racconti che ho scritto durante gli ultimi 2 anni, e abbiamo tradotto questi racconti in inglese, e poi Lucio ha scelto delle frasi che rappresentassero il racconto stesso e lo mettessero nelle forme rigide di una canzone, quasi come dei motti, degli spot pubblicitari, qualcosa di dal significato molto forte, sebbene si parli di qualcosa di profondo come la morte, oppure qualcosa di più leggero come capita nel pezzo d'apertura del disco, in cui c'è proprio un dono da parte del cane al padrone, in questo caso un gatto morto. Sì, che si putrefazione. Ok, collaborazione con i Plus Clan che era annunciata. È una cosa molto curiosa, sì, in effetti, come tipo di... No, io parlo di solito di band, però non è una band, ovviamente. Come mai? Beh, innanzitutto perché siamo ascoltatori di tutto, di ogni genere musicale. Ormai io definisco un gruppo metal, è una cosa un po' che non rappresenta la realtà, è solo una delle tante influenze che ci sono, come ci può essere il blues, ci può essere il metal, il rock, quindi siamo onnivori, e quindi anche musica elettronica, e quindi anche hip hop, che è effettivamente fatto con strumenti elettronici. Insomma, in questa canzone avevamo bisogno di, diciamo, un colore elettronico, perché la canzone era molto, diciamo, bombastica, su un aggettivo se me lo passi, e quindi avevamo bisogno di creare un po' di atmosfera, e in Italia Luciano, il beatmaker del Tucce Clan, secondo noi è uno che lavora molto bene, che ha, a differenza degli altri DJ hip hop, piuttosto che andare a campionare i classici soul, R&B, va a campionare magari delle colonne sonore oppure dei dischi metal, cioè le sue fonti sono diverse dal resto della gente che fa musica elettronica e rap. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stata perfetta per noi, e in effetti ha calzato pennello. E poi anche lui come persona l'abbiamo conosciuto, siamo stati insieme un paio di giorni a Roma dove abbiamo registrato il disco, e abbiamo capito che anche se magari siamo in due ambienti musicali totalmente diversi, per pubblico non sono poi così diversi, abbiamo tante cose in comune, lui ascolta tanti dischi che abbiamo anche ascoltato noi da giovani e anche adesso, quindi può essere strano a prima vista. No, interessante, cioè, però, proprio per il nome che avete scelto. Sì, l'abbiamo scelto proprio perché sia loro come immaginario, ma soprattutto lui, Luciano, perché non è tutto il Tuscitano, ma lui come fonte dei campionamenti va a prendere in un ambiente da cui noi veniamo, tra virgolette, e quindi abbiamo molte cose in comune a livello musicale. Perfetto, mi è molto piaciuto questo, cioè, ripeto, l'ho trovata molto interessante. Ogni collaborazione ha un motivo di esistere a livello artistico, non tanto per il nome, proprio perché noi stessi siamo fan di chi abbiamo chiesto la collaborazione. L'abbiamo fatto, cioè prima c'è stato il pezzo e poi abbiamo pensato qua ci potrebbe essere quello che può avvicinarsi a quell'idea musicale che abbiamo nella testa. E per quel brano Nina andava bene. Lui ha fatto tutte le parti, sentendo la canzone, è stato un buono alla prima, tutte le parti che c'erano subito in tutto.